la serie, ma voi ne ricattate, c'è chi può garantirmi c'è la cacca di un bosse, che è una scuola del mondo, non ha di peggio trattata, chi gli muore al posto c'è ne andata, mi si è avanzata. Cacca di un bosse, la cacca di un bosse, la cacca di un bosse, c'è la cacca di un bosse, cacca di un bosse, la cacca di un bosse, la cacca di un bosse, la cacca di un bosse. Chiamami come ti dire, ma ti piace, non ti sento, vai sopra più che un duca, lo padre vai con una gaga, lo tanto a New Zealand, che te fatti il famoso, mi sono tu e te, ti grazie, lo tuo cacca di un bonzo. Cacca di un bonzo, la cacca di un bonzo, la cacca di un bonzo, la cacca di un bonzo. Cacca di un bambino.